24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi sia l'Eurogruppo a Bruxelles, con la Grecia ancora tra i temi in discussione, sia il vertice italo-francese di Lione, che ha riaffermato l'impegno dei due paesi sulla TAV. In Europa è allarme povertà, mentre la Commissione europea si prepara a varare un pacchetto sull'occupazione giovanile. L'alto rappresentante europeo, Cathy Ashton, lancia intanto un monito alla Corea del Nord. Infine parliamo del premio Nobel per la pace all'Unione Europea. Cosa accomuna un francobollo a una giovane italiana di Milano? Lo scopriremo insieme tra poco. In apertura le notizie economiche, notizie fortunatamente positive, perché lo spread tra il BTP e il Bund tedesco è sceso ieri sotto quota 300 punti base. Si tratta della prima volta dal 21 marzo. In questo contesto di apparente tranquillità sui mercati si sono riuniti a Bruxelles i ministri dell'economia dell'Eurozona. Sentiamo. L'Eurogruppo discuterà principalmente di Spagna questa sera. Due le questioni sul tappeto: la ricapitalizzazione delle banche e l'ipotesi di chiedere l'aiuto del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria per dare ossigeno alle finanze pubbliche. C'è ancora incertezza se il governo spagnolo chiederà il sostegno europeo. Per ora è prevalso l'orgoglio nazionale e il desiderio di procrastinare una decisione impopolare. Sul fronte greco è probabile che i ministri delle finanze discuteranno dell'opzione di riacquisto di titoli obbligazionari sul mercato, un passaggio cruciale per ricevere nuovi aiuti finanziari a metà dicembre. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La Spagna, come da attese, ha fatto ufficialmente richiesta ai partner europei del salvataggio per il proprio sistema bancario, pari a 36,9 miliardi di euro destinati alle quattro banche nazionalizzate. Alla cifra si aggiungono 2 miliardi e mezzo destinati dal Fondo di Ristrutturazione Nazionale alla Bad Bank. Lo si legge in una nota del Ministero delle Finanze iberico, che attende l'arrivo dei fondi da parte dell'IFSF il prossimo 12 dicembre. E ora l'altro tema in primo piano, il vertice franco-italiano a Lione, con la dichiarazione del ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera. Italia e Francia si sono ripetuti al massimo livello. Italia e Francia hanno confermato al massimo livello il loro impegno per la realizzazione dell'opera La TAV. Viene confermato dunque l'orizzonte 2013-2023. L'impegno di 8,2 miliardi sarà diviso e sarà condivisa la richiesta all'Europa di contribuire per il 40% agli investimenti, circa 4 miliardi. Ma ascoltiamo ora proprio sulla TAV la dichiarazione del premier Mario Monti nel corso della conferenza stampa con il presidente francese François Hollande. C'è già stato un accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 sottoscritto dal Presidente Sarkozy e da me e dai rispettivi ministri, e quello sarà presto sottoposto alla ratificazione del Parlamento italiano per quanto ci riguarda. E sul summit italo-francese l'analisi di Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, sentiamolo al microfono di Anna Migliorati. Proprio in questo momento le due delegazioni ministeriali stanno firmando i 6 accordi bilaterali, anche se il più importante di tutti riguarda ovviamente la Torino-Lione. L'obiettivo per i due governi, per il Premier Monti e per il Presidente Hollande, è quello di ribadire con forza la validità di questo progetto e la necessità che l'Unione Europea aumenti il suo finanziamento. Ricordiamo che l'investimento necessario per il tunnel di base, per la sezione transfrontaliera della Torino-Lione, è di 8,5 miliardi. L'accordo tra Francia e Italia è che l'Italia stanzi 2,9, la Francia 2,2, il 3,4 rimanente, cioè il 40%, dovrebbe appunto arrivare dall'Europa. Grazie anche a Marco Mussanè, anche con te ci risentiremo, ma tra l'altro Lione è anche blindata in queste ore perché si temono i manifestanti italiani, stretti i controlli alla frontiera, dove tra l'altro sono stati fermati 6 autobus che trasportavano appunto i no-TAV italiani. E a Lione allora c'è anche Maria Chiara Voci. Sì, buongiorno da Lione. È in una città blindata, sorvolata dagli elicotteri, quella che sta accogliendo oggi il premier italiano Mario Monti e il presidente francese François Hollande. In centro, attorno alla prefettura, al giorno in cui si svolge il summit, è stata istituita un'ampia zona rossa. del quartiere sono state chiuse tutte le stazioni della metropolitana e gli edifici dei dintorni sono stati setacciati dalle forze dell'ordine per timore di attentati da parte dei militanti in Notaz. I rappresentanti del movimento che si oppone all'opera del resto stanno raggiungendo numerosi Lione, dove già da venerdì è in corso un press summit. Questo pomeriggio è previsto un presidio di protesta nella zona di Prosto, a 2 chilometri circa dalla prefettura. Non è invece autorizzato successivo corteo. Altissima da questa mattina all'alba la sorveglianza anche alle frontiere, dove vengono respinte le persone segnalate dalle forze dell'ordine. Al traforo del Fréjus la gendarmerie controlla a tappeto autobus e bagagliai. Dei 12 bus notar partiti dalle valli questa mattina 6 sono stati bloccati. È stato anche fermo per un'ora a Modan il TGV è partito da Milano e diretto a Parigi. E per il momento è tutto da Lione, restituisco la linea. Quasi un quarto della popolazione dell'Unione Europea, 120 milioni di persone, era a rischio povertà o esclusione sociale nel 2011. Lo rende noto Eurostat precisando che la crisi economica ha avuto un forte impatto su 119,6 milioni di cittadini, pari al 24,2% della popolazione contro il 23,4% registrato nel 2010. La più alta percentuale di persone a rischio povertà o esclusione sociale è stata registrata in Bulgaria col 49%, seguita da Romania, Lettonia e Grecia, la più bassa in Repubblica Ceca, in Svezia e nei Paesi Bassi, così come in Austria e Lussemburgo. Il livello di disoccupazione registrato da Eurostat a ottobre nell'Eurozona e nell'Unione Europea è inaccettabilmente alto. I governi ora devono adottare le misure decise a luglio per rendere il mercato più dinamico. Domani l'Europa presenta il piano per l'occupazione giovanile ai nostri microfoni, al microfono di Gigi Donelli. Sentiamo il commissario europeo al lavoro, Laszlo Andor. Yes, first of all, we have been aware of the trend of the past period. Sì, certo, siamo consapevoli della tendenza del mercato del lavoro all'interno dell'Unione, in particolare nello spazio euro. Purtroppo l'Italia, o meglio l'Italia del Sud, fa parte di quella fascia europea in cui la disoccupazione è particolarmente grave. Il Mezzogiorno italiano è stato colpito con durezza dalla crisi e dalle politiche di austerity. Tutto questo quadro indica che l'intervento della Commissione in questo ambito è utile e direi indispensabile. Quest'anno abbiamo investito somme importanti, attingendo al bilancio dei fondi strutturali. Abbiamo speso soprattutto per i progetti rivolti ai giovani, per la loro formazione, per gli stage e l'apprendistato. Giovedì prossimo, poi, ci sarà l'approvazione del pacchetto europeo per l'occupazione giovanile, che estenderà a tutto lo spazio europeo quello che sono le migliori pratiche presenti tra i 27 Stati. Proprio per questo la Commissione insiste nel sostenere il rafforzamento del bilancio 2014-2020 sul fronte del Fondo Sociale Europeo, che orienta gli investimenti sul capitale umano, sull'educazione, sulla creazione di nuovi posti di lavoro, ma che riguarda anche la riforma della pubblica amministrazione. Per chiudere questo capitolo di bilancio c'è ancora un po' di tempo, prima che la parola passi al Consiglio dell'Unione e al Parlamento, e credo che si debba fare ogni sforzo per favorire la dimensione sociale dell'Unione Europea e dunque per portare avanti la nostra proposta. Le norme di Basilea 3 in Europa potrebbero essere rinviate, ma solo di qualche mese, verso gennaio-febbraio 2013, a riferirlo fonti comunitarie dopo il rinvio sine die proclamato dagli Stati Uniti nelle scorse settimane. Adesso i mercati, i listini europei frenano sul finale dopo essere arrivati a guadagnare oltre un punto percentuale. L'ottimismo innescato dai dati sull'economia cinese e dall'accordo sulla Grecia è stato frenato dall'apertura incerta di Wall Street. A Milano il FTSE MIB ha chiuso a più 0,43%, il FTSE Share a più 0,34%. Timori europei sulla Corea del Nord. L'alto rappresentante della politica estera Katie Ashton si è detta molto preoccupata dall'annuncio della messa in orbita del satellite a Pyongyang tra il 10 e il 22 dicembre e lo considera un atto provocatorio, chiedendo che la Corea del Nord si astenga dal lancio, un'azione che minaccia la pace e la stabilità dell'area. Si chiama Elena Nicoletta Garbucho, ha 16 anni e al terzo anno delle superiori, vive a Novate Milanese e lunedì sarà ad Oslo assieme ai presidenti delle tre istituzioni europee per la cerimonia di consegna del Nobel della Pace all'Unione Europea. Elena è infatti una dei 4 vincitori del concorso dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 24 anni, indetto dall'Unione per premiare disegni e messaggi in formato Twitter che rispondono alla domanda «Pace, Europa, futuro, cosa significa per te la pace in Europa?». Restiamo sul tema della Nobel della Pace all'Unione Europea per parlarvi invece di un francobollo. Il profilo geografico dell'Europa, circondato dalle 12 stelle dell'Unione e un ramo di ulivo stilizzato, simbolo della pace. Questa è la vignetta scelta dall'Italia per il francobollo commemorativo del conferimento della Nobel per la pace 2012 all'Unione Europea. Il francobollo, che avrà un valore di 75 centesimi di euro, sarà emesso il 10 dicembre. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Un augurio di buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.